bisogno di voi, anche se so quel che ho fatto, vedrete in me la ragazza che già conoscevate, e sono qua ancora. I difetti che ho, volevo far qualcosa e ci provai, da una vita seduta mi alzai, spalancai le finestre e le ombre gettai. Di aria nuova anch'io, la vita diceva di no, non regala niente, lo so, non piangere più Argentina. Io mantenni una promessa a me stessa. Fortuna e fama che sono mai, davvero io non le cercai, anche se sono accusata da voi, sono illusioni e non soluzioni che promisero a me una sola risposta, è la mia, io ti amo e spero anche tu. Una promessa, parti me stessa.